Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a indagare un curioso incrocio tra fumetti, geografia e immigrazione. E lo facciamo con Antonella Rinella, che ha dato vita a questo volume, Geografie dissonanti e profonde, l'immigrazione nel Mediterraneo, a bordo del fumetto WIP Edizioni. Antonella ha preso a prestito un dato storico della cartografia, il Dwelling Journey Spiral, adattandolo e incrociandolo con la tematica dell'immigrazione, quindi la ridondanza delle immagini mainstream degli approdi sulle coste italiane riguardanti il solo atto omologante della fine del viaggio, che viene presentato come una sorta di invasione, e cela al pubblico italiano sia i tanti penosi prima vissuti dai migranti e cominciati in un determinato altrove, sconvolto da guerra, povertà, disastri ambientali, sia i drammatici durante trascorse nel deserto infuocato, in luoghi di detenzione disumani e nel mare in tempesta. Questo presente lavoro vuole esplorare, con 14 graphic novel resistenti, le immigrazioni nel Mediterraneo, sceneggiate e disegnate da artisti italiani o da autori stranieri che vivono proprio nel nostro paese, capaci comunque di restituire la viva voce dei migranti sui viaggi compiuti e sulla situazione della terra natale e sul periodo lungo e difficile di apprendimento esperienziale che, nei casi detto fine, porta a riconoscere la comunità italiana come un luogo dove essere, sentirsi a casa e ricominciare la propria vita. Tutto questo in un fumetto, in un balloon, dopo lo stacchetto musicale, la voce proprio di Antonella Rinella. Abbiamo al telefono Antonella Rinella, che è professore associato di geografia economica politica presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi dell'Uomo dell'Università di Salento, che ha fatto un incontro avvicinato del terzo tipo, mettendo in relazione la geografia, il viaggio e la migrazione, rispetto al concetto che ha preso e aggiornato del Dwelling Journey Spiral. Ci puoi spiegare, se possibile, in poche parole, cos'è questo viaggio, dimora, viaggio? In questo testo io ho cercato dei racconti, delle narrazioni che fossero diverse da quelle dominanti. Dobbiamo dire che il libro è stato pubblicato nel 2019, quindi nel momento più caldo, possiamo dire, dei decreti Salvini e Salvini bis e della chiusura dei porti. Siamo abituati a vedere attraccare, lo siamo ancora adesso, le navi delle ONG nei nostri porti, oppure vediamo arrivare gommoni o delle carrette fatiscenti con a bordo tantissimi nostri fratelli e sorelle. La chiamiamo emergenza, è forse il termine più sbagliato che si può usare, perché emergenza è qualcosa di impossibile da prevedere, ma noi dobbiamo ricordare che l'Italia è un paese di immigrazione a partire dal 1991, e quindi dico con una punta di orgoglio, essendo pugliese, che proprio dalla Puglia è cominciato questo processo con l'arrivo delle prime navi albanesi a Brindisi e al Bari. Quindi sono più di 30 anni che questo processo è in atto. Allora ho cercato le voci alternative al racconto mainstream, che generalmente presenta questi arrivi di massa come l'arrivo di nemici, come lo abbina ad immagini paurose, e questo naturalmente fomenta l'insicurezza e accatena anche il razzismo, che probabilmente è dovuto al fatto proprio di vedere improvvisamente le coste italiane tra virgolette invase. Ma che cosa c'è a monte di tutto questo? C'è proprio quel modello di residenza viaggio che era proposto da un geografo, il professor Simon, un geografo anglosassone, e l'aveva usato per analizzare alcune opere letterarie che parlavano delle migrazioni. E allora dovremmo cercare ogni volta di capire che prima di quello sbarco c'è naturalmente la perdita della dimora, la decisione di partire, ci sono dei preparativi, nel caso delle attuali migrazioni sono preparativi estremamente affrettati, c'è il momento dell'arrivo, il rapporto con un territorio nuovo, altro rispetto a quello che i migranti conoscevano come casa, e poi ci si stabilisce in questo paese e per i più fortunati c'è anche la possibilità di arrivare a sentirsi a casa, di riunirsi e di entrare a far parte di una comunità, che col concetto di comunità è molto più ampio di quello di semplice collettività. La collettività fruisce insieme di beni, una comunità condivide dei valori. E allora ho provato proprio a cercare questa spirale all'interno di tanti fumetti italiani. Ho scelto in particolare quelli italiani perché ho focalizzato l'attenzione proprio sulla situazione nel Mediterraneo e trovo che queste narrazioni che ho scelto, ho selezionato 14 graphic novel, danno proprio la possibilità al lettore, ma preferirei chiamare il lettore esploratore, così come fa un critico di fumetti, Andrea Tosti, perché in realtà noi possiamo entrare nel fumetto, ne diventiamo parte attiva, è come se guardassimo un fiume e guardandoci intorno cerchiamo in ogni vignetta una possibile via di uscita. Siamo chiamati ad un atteggiamento conativo di partecipazione, a mio parere, molto più forte di quello che è richiesto in altre forme d'arte di comunicazione. Questo libro apre con due interessanti capitoli iniziali che analizzano il fumetto in generale e la graphic novel in particolare, e quindi la nuvoletta è uno strumento estremamente adatto. Assolutamente sì, a mio parere assolutamente sì, soprattutto io ritengo che i fumetti, e voglio sottolineare, per me graphic novel è a tutti gli effetti un fumetto, è semplicemente un fumetto che non è un albo, che ha un inizio, un suo contenuto e una sua conclusione. Non voglio usare questa parola per moda e rifuggo da questa moda. I fumetti, io credo abbia ragione Gipi, si dividono in due categorie, i fumetti che sono belli e i fumetti che sono brutti, non esistono fumetti di serie B e graphic novel di serie A. E quindi credo che in poche pagine, e questo è il principale segreto a mio parere del fumetto, sia possibile attirare l'attenzione di molti di noi che generalmente tengono accesa la televisione o magari anche la radio, ma si crea una sorta di assuefazione rispetto alle immagini che vediamo. Io non so sinceramente quanti ascoltatori e ascoltatrici abbiano riflettuto sull'ultimo barco della nave ad Ancona, di cosa sia significato arrivare fino ad Ancona, quindi ad un porto ben più lontano da quello del salvataggio. Ecco, nei fumetti che io ho analizzato in questo libro, in particolare ne ricordo uno per i tipi di Feltrinelli, che è un vero e proprio reportage, quindi quello che oggi si chiama in maniera moderna un'opera di graphic journalism, di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, che si chiama Salvezza. Questi due autori hanno deciso di salire sulla nave Aquarius, proprio quella nave di cui mesi dopo si cominciò appunto a parlare perché non trovava un porto per sbarcare, e ci raccontano dalla nave quello che accade. Beh, io credo che cambiare punto di vista sia assolutamente fondamentale. Sapere che questi nostri fratelli e sorelle, questi cittadini del mondo, hanno attraversato prima il deserto, sono stati incarcerati in quelli che chiamiamo centri di accoglienza in Libia, ma che a tutti gli effetti sono delle carceri, che hanno pagato per ognuno di questi step del viaggio, che hanno subito delle torture, che hanno assistito alla tortura di altri, sia davvero molto importante. E questo credo che il fumetto riesca a farlo molto più di un reportage fotografico, soprattutto può parlare ad un pubblico che non legge quotidiani, e sappiamo che questo è un problema molto ampio in Italia, quello della lettura, e lo dico in particolare per il pubblico più giovane. Pasta creatura che va per mare dinda notte scura, dorma casita, dorma presta, non vene la tempesta. Dorma, dorma che sta carretta si dorma, poi naviga più in fretta. Naviga, naviga tutto mare che abbiamo attraversare. Non sa stanca, si sta creatura bella da Sri Lanka. Naviga, naviga, non sa sperta, si bene a Capo Verde. Questa terra che ti appartiene, se c'è sta che ti va bene. Ninna nanna, perché sto mondo è chi lo dica, l'ha creata, l'ha fatta tu. E c'è sta posta per tutto quanto, si l'ha fatta così grande, e si l'ha fatta così grande. Nei fumetti che hai scelto, alcune ripercorrono storie che la cronaca conosce, come l'affondamento della Katirades, la vicenda di Riace, altre invece parlano di singole storie significative come la fuga dalla Siria oppure dal Marocco. Esatto, quindi ci ricordano, io penso, una cosa fondamentale, che migrare non è un'emergenza, migrare è la normalità. Da sempre i gruppi umani, quando l'ambiente in cui vivono non è favorevole, pensano a un viaggio che può essere temporaneo o permanente. È molto importante, secondo me, che passi questo messaggio, che le migrazioni sono normali. Lo sono per tutti gli esseri viventi, vegetali, animali, e lo è quindi anche per il gruppo umano. Se riuscissimo a sradicare quest'idea dell'emergenza, a fare riflessioni nuove, diverse, partendo da dati semplicissimi, guardando per esempio a quanto ammonta la popolazione dell'Africa, che è ormai circa 1,4 miliardi, al fatto che circa il 60% di questa popolazione ha meno di 25 anni, e allora capiremo che queste onde migratorie che interessano il Mediterraneo non sono destinate a finire. Chiudere i porti non ha nessun senso. Non voglio naturalmente sottolineare il fatto che è di un cinismo estremo quello che accade, io lo ritengo anche contrario alla Costituzione italiana, che sottolinea che la solidarietà è un dovere inderogabile, e non dice che è un dovere inderogabile nei confronti degli italiani, ma quindi di tutti i nostri fratelli e sorelle. Quindi non c'è soltanto il diritto internazionale in quello che accade, ma c'è anche la nostra Costituzione, e ci vorrebbe la saggezza che hanno sicuramente avuto i nostri padri costituenti, i quali nell'articolo 10 della Costituzione parlavano del diritto d'asilo. Certo, ne parlavano avendo in mente persone i cui diritti non fossero rispettati in paesi non democratici. Non potevano immaginare quello che sarebbe accaduto, gli attuali disastri ambientali, che sono il momento più forte in questo momento della fuga, principalmente verso l'Europa, ma non solo verso l'Europa. E la Carta Costituzionale lascia ampia possibilità di rivedere questo concetto del diritto d'asilo. Secca terribilmente sentire fare distinzione tra migranti economici che non dovrebbero averlo questo diritto, quando di fatto fuggono da situazioni ambientali che sono create da quello che chiamiamo il nord del mondo, cioè da una minoranza della popolazione mondiale che domina le risorse, consuma, ed è la causa fondamentale degli squilibri ambientali che stiamo vivendo. Cioè, questo semplicemente per dire che nel futuro queste migrazioni continueranno, non chiamiamole più emergenza, e soprattutto troviamo soluzioni che non siano semplicemente quello di deviare o allungare di 200-300 chilometri per mare i viaggi delle navi, delle organizzazioni non governative, che tra l'altro, lo si sottolinea spesso, salvano in mare il 10-15% del totale, quindi non rappresentano il canale principale che porta sulle nostre coste i nostri fratelli e sorelle di altri paesi. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. La tua professione, tu dici che la geografia non è un elenco di nomi su una cartina, ma è il racconto dei territori, di chi ci abita. Pensi che la scuola italiana sia attrezzata a questo concetto di geografia, oppure ancora legata al vecchio modello delle cartine geografiche pure e semplici? Allora, intanto diciamo che io utilizzo i fumetti, e questi, alcuni di questi fumetti, a rotazione nei miei insegnamenti nell'Università del Salento. Ti posso dire che in questo momento nella scuola primaria noi abbiamo una geografia non più noiosa, perché questa, lo so, l'immagine generale che hanno in mente molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici. L'elenco dei capoluoghi. Esattamente, l'altezza delle montagne, la lunghezza dei fiumi, ovviamente qui ci basta il nostro smartphone per dare queste risposte, e invece la geografia è tanto e molto di più, è narrazione del mondo, è aiutare a comprendere ognuno di noi a decodificare le narrazioni del mondo in cui siamo immersi. Io dico sempre ai miei studenti e alle mie studentesse che anche chi non segue un corso di geografia continuamente durante il giorno ascolta, vede narrazioni del mondo. Allora, se noi impariamo a decodificarle, saremo anche in grado di costruire la nostra narrazione autonoma, critica, consapevole, responsabile. E quindi credo che la geografia possa in questo senso aiutare chiunque, perché noi continuamente siamo immersi nelle diverse scale spaziali. Io dico che siamo dentro tante bambole russe, una dentro l'altra, e dobbiamo imparare che non siamo semplicemente cittadini italiani. Prima di tutto abbiamo una doppia cittadinanza, siamo anche cittadini europei, quindi anche parlare dell'Europa come se fosse, dell'Unione Europea come se fosse una nemica, è un altro stereotipo sbagliato, perché noi siamo parte dell'Europa, queste coste italiane sono coste europee, ma noi siamo anche cittadini del mondo. Ti faccio sorridere, io vivo principalmente a Bari, ma insegno a Lecce, la rivalità tra Bari e Lecce, anche calcistica, è nota, ne potremmo citare molte, ma che cosa abbiamo tutti in comune? In questo caso, che amiamo per esempio il calcio, per me è vero, e quindi anche nelle rivalità più accese si possono trovare elementi di convergenza, e questo è un altro aspetto che io ritrovo molto nel fumetto, che può aiutare nella comprensione della relazione del mondo. Il mio unico cruccio, che penso sia anche il tuo e degli ascoltatori e delle ascoltatrici che amano i fumetti, è che non vengono letti dalle persone più giovani. Io ho 56 anni, quindi appartengo a quella generazione che era abbonata a Topolino, a cui batteva il cuore aspettando che arrivasse, diciamo, il nuovo numero, e quindi siamo abituati fino all'infanzia ai fumetti. E vi devo dire, quando io introduco questi graphic novel nella mia didattica, diciamo che il 10% degli studenti e delle studentesse ha letto qualcosa da bambino o tutt'oggi legge prevalentemente manga, ma non di più. E dispiace, perché il panorama italiano del fumetto è estremamente ampio. Abbiamo delle belle case editrici indipendenti che andrebbero proprio aiutate ad avere una maggiore visibilità. Non voglio mettermi a citarle per non far, diciamo, torto a nessuna di loro, e quindi dobbiamo trovare un modo per avvicinare questo pubblico più giovane alla nona arte, perché per loro è assolutamente sconosciuta, perché poi quando cominciano, diciamo, a conoscerla, possono cominciare anche ad amarla. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman.